altra traccia, Andrew's Right for Life. Anche questa notte passata abbia inizio un'altra giornata, appena iniziata, appena arrivata, non te ne accorgi, se n'è già andata. Passano i giorni, passano le notti, il tempo corre, tu te ne fotti. Penso che motti, penso che ciocchi, guardi lo specchio, minchia che occhi. Cazzo combini così ti rovini, tu dici che smetti ma invece continui. Lasciali perdere certi cretini, fra meglio evitarli certi casini. Dimmi zio tu come farai a non cacciarti ancora nei guai. Dimmelo dai, non ce la fai, ma nella vita mai direi mai. Leggo il giornale, accendo la tele e poi cambio canale. Non mi sembra vero, ma qui è normale, letale, speciale, fedele, crudele come un animale. Ti fa diventare la gente che non sa niente. Fumi una canna, sei un delinquente. Bevi una birra, addio la patente. Mi scusi, gente, non è divertente. Adesso fai anche il prepotente. Pensi di essere intelligente. Sei solamente perdente, arrogante, indecente, pesante. Questo è deprimente. Devo lottare contro chiunque. Voglio distinguermi da non qualunque. Se nella vita vi aggiungerà al dunque, vi forza vai avanti con la libertà. Ci si sente spaesati. Tutto questo tempo tutto gonfiato, manco siamo arrivati. Prima coi sogni, poi coi progetti. Troppi bisogni, giù coi mezzetti. Come la metti quando ti sbatti? Solo che a tratti non ci rifletti. Pochi commenti, tanto si sa. Se non ci secca il 2012, ci sarà chi lo farà. O la madama, proprio politici. Io odio sta società. Questa città, sempre più fredda, sempre più stretta. Senza più via d'uscita, resta la cameretta. Cresci in fretta, impari a difenderti. Per farlo è meglio attaccare. Tempo regge, vengono a prenderti. Qui è sempre meglio giocare. Anche se viene male, se chi ti guarda si mette a fischiare. Se incontri scontri non solo sul campo, non solo a livello verbale. Non sai simulare, non sei un animale, non mordi abbastanza. Vedi la vita come tuo papà. E vedo persone che fanno paura. Non voglio finire come quelle là. La scelta è la tua e non sarà mai quella giusta. Rischi di farti la bua, ma tutta esperienza. Tanto alla fine poi tutto si aggiusta. Ritorni in pace con la tua coscienza, ma con la spina dorsale robusta. Rabbia repressa, ira funesta. Fanno più spiccioli con le lemosine e panca bestia. Giochi rovina traviesa, meno distanze, meno tristezza. Meno paura di ciò che sarà. Tanto è comunque una merda, è sempre la stessa. Vorrei partire da dove ho salvato. Riprendo da capo col cazzo che resto da un lato. Targato quartiere schizzato, tampono quel poco che provo ubriaco. Mi faccio i miei film, spesso finisce davvero così. Vuol dire che sono un veggente o che forse non credo più a niente. Vedo a raggi X, soltanto con soldi si sale sul ring. Un altro amico che se n'è andato, un altro amico è stato arrestato, un altro amico è sparito perché un altro amico è infamato. Un altro amico mi ha raccontato che gli sbirri l'hanno picchiato, perché era in due sul cinquantino e subito non si è fermato. Io mi chiedo com'è che va, sempre più a rotoli sto mondo. Vedo amici di tanti anni fa sprofondare giù nel profondo. Com'è possibile certa gente non ha né cuore né sentimenti? Com'è possibile che gli agenti carichino cittadini innocenti? Vedo abusi di potere, sempre meno persone vere. Troppa affluenza nelle galere, ancora meno donne sincere. Il mio quartiere tempo fa non c'era tutta questa polizia. Per stare meglio la gente da qui se ne va via. Cerca questa libertà, cerca una vita migliore. C'è chi invece rimane qua, chi ci nasce, chi ci muore. Chi ha dentro un ardore che viene dal cuore, che dà più colore a tutto ciò che fa. C'è chi ti dà amore, chi ti dà dolore, che passano le ore ma non se ne va. C'è chi non si stanca, c'è chi rapina una banca. C'è chi ne ha tanta, c'è chi si vanta. C'è chi ha sbagliato così tanto che ora la coscienza infranta. Scrivo matita, racconto la vita che fa la gente come noi. Che vuoi che ti dica una cosa proibita, la fai con più gusto se non puoi. C'è chi ti tradisce, c'è chi ti ferisce, c'è chi ti rastrisce, chi al buio finisce, chi prova e fallisce, chi non obbedisce, chi striscia per terra fra come le pisce. Chi non capisce com'è che va, com'era e come sarà. Io rimango sempre qua, come andrà solo Dio lo sa. Libertà.